shianga sikarulu yapajika juna lulu kega lupa viana jeli petro na venesagete manisila lurusete la jidua di ma vivieli indifi luna che jana nisili rikai che jana indivine una ichaiku la nena già selana ma che chi gliela scicune pur l'iruna ne risuge sta la turu sigina bagna nasci luna cagi nina luna nasci nasci che ni sa già via zaga bagna nasci luna cagi nina luna nasci nasci Eni sa ja via zaka Rina valigi ma che chino pararielu parariu Najeli tisikarulu ne purunga zate shanyelu ke shagana lu petrona la chidua pavia kajuva nudilu la laspidolo para nu sana de yuna rinava ni li petrona si kanyaka ni tiguna ma ke gije la shikune Urliruna neri suje sta le turu sigina Anya nashi luna gaji Nina luna nashu nashi Ke ni sa ja via zaka Anya nashi luna gaji Nina luna nashu nashi Eni sa javia zaga